Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi cari amici, è arrivato il nostro momento, abbiamo subito pronto il nostro sommario con Carmelo Lauricelli, regia la parte tecnica. Non è tanto sorridente oggi, no? Sì, abbastanza. E Laura Vanossi in redazione, andiamo! Gli esami non finiscono mai. Affronta la tua prossima sfida con noi. Sopravvivere in azienda con i consigli di Zoot. La prevenzione scende in piazza. Tempo di esami. Se in casa avete un maturando, io ce l'ho, sapete cosa intendo dire. Ma la maturità è solo uno dei tanti esami che ci troviamo ad affrontare nel corso della vita. Gli esami, lo sapete bene, non finiscono mai e non si finisce mai di imparare ad affrontarli. Allora proviamo a farlo oggi insieme con due esperti: Alberto Pellai, medico ricercatore all'Università di Milano, psicoterapeuta, e mio compagno di questa casa non è un albergo. Ciao Alberto. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. In linea con noi è tornato a trovarci anche il dottor Luciano Ballabio, coach, formatore, scrittore di numerosi libri, tra cui Ispirati dalla bellezza di Franco Angeli Editore. Buongiorno dottor Ballabio, bentornato anche a lei. Buongiorno e ben ritrovati. Io inizierei subito da voi. Qual è l'esame che avete patito di più, dottor Ballabio? Più che un esame direi una prova, il primissimo ricordo, anche se si potrebbe snocciolare una serie numerosa di esempi, mi riporta al subito post laurea, anno 1976, primi contatti con il mondo del lavoro. Mi ero laureato in filosofia con il massimo dei voti, grandi entusiasmi, primi concorsi per ricercatore per continuare gli studi che avevo intrapreso di storia della filosofia, e prime cocenti delusioni e frustrazioni. Giusto il primo esempio, un concorso del CNR nazionale per 12 borse di ricerca e io arrivo tredicesimo. Un altro concorso del CNR, questo è più carino, vengo nominato vincitore della borsa, ma mi viene comunicato che per poterne fruire devo documentare, dimostrare di avere un rapporto di lavoro dipendente di altra natura. Cosa che evidentemente corrispondeva alla realtà. Oppure, ancora più interessante, a proposito di frustrazioni e di prove che mettono alla prova, una borsa di ricerca della Fondazione Feltrinelli di Milano, che anche in questo caso avevo vinto, mi era stata assegnata, ma il direttore scientifico di allora, Giuseppe Delbò, mi scrisse dicendo che purtroppo la borsa l'avevo vinta, ma non c'erano i finanziamenti della Regione Lombardia e quindi non potevano assegnarla. A casa. Tutti esempi carini, mi sembra, di sfortuna che tuttavia con il senno di poi, ma anche con l'elaborazione successiva, si sono rivelate delle occasioni, opportunità per aprire altre strade, visto che quelle si erano rivelate tutte chiuse o impraticabili. 824 0024 se volete raccontarci anche voi le prove che vi hanno messo alla prova e come le avete superate. Se, come dice il dottor Ballabio, le sconfitte sono state delle opportunità o invece vi hanno legato al palo. Alberto, a te com'è andata? Ma guarda, mentre pensavo mi si sono aperte due immagini, proprio le prove della mia vita, e una è stata un abbandono d'amore, perché io questo l'ho proprio trovata come al pari di un esame, perché è giunto totalmente inaspettato, ne sono rimasto travolto, non avevo proprio le competenze per gestire un dolore di questo tipo, ma alla lunga si è rivelata un'esperienza molto molto formativa. Direi che poi agli esami di riparazione sono stato promosso. E mi viene in mente un'altra situazione di lavoro dove, prova a immaginare, c'è proprio un plotone di esecuzione. Io ho fatto un errore clamoroso per cui viene riunito tutto un dipartimento e io sono lì e tutti parlano del mio errore. Ecco, in quel momento ho pensato dentro adesso di me, muoio. Questa volta non ce la faccio. Dottor Ballabio, c'è un esame, una prova per cui lei non si sentirebbe mai pronto? Non ne ho idea, probabilmente non siamo pronti a nessuna prova. Io mi sono ripetutamente trovato nella situazione che descriveva orora Alberto Pellai e credo che sia proprio così, cioè non siamo mai pronti ad affrontare al meglio nessuna situazione. Mi viene in mente il primo concerto dell'Orchestra Sinfonica Amatoriale La Verdi per Tutti, della quale faccio parte, 4 anni fa, affrontare 1400 persone che erano nel pubblico per la prima volta, essere su un palco, quello dell'Auditorium di Milano. La prima impressione è stata: non ce la farò mai io, e forse non ce la faremo mai tutti quanti noi. E poi invece è stato una esperienza bellissima, un grandissimo successo. Credo che questa sensazione di non farcela, proprio quella a cui si riferiva il collega poco fa, sia connaturata nella nostra, forse proprio anche nella nostra genetica. E il gioco a cui siamo continuamente chiamati è proprio quello di arginare il sentimento di impotenza e trasformare la paura in coraggio. Fare quel famoso balzo, no? Mi butto. Alberto, come ti prepari ad una prova? Iniziamo dalla sera prima. Allora, intanto devo avere la consapevolezza che io sono pronto per quella prova e questo significa averci messo impegno e quant'altro. Dopodiché, per me è molto consolante, da buon fobico, sono un po' così di mia struttura di personalità, dirmi domani a quest'ora tutto sarà compiuto, per cui qualsiasi sia il risultato anch'io io sarò qui. Anch'io uso questa cosa, fra 24 ore e questo mi tranquillizza tutto. Molto, perché rimette proprio fa diventare relativo un evento che ti sembra invece tutta la tua vita. Durerà 3 ore, durerà 5 ore, ma avrà un termine, io sarò ancora qui e speriamo che tutto sia andato bene. Dottor Ballabio, lei come coach è più avvantaggiato, ma ci dica la sua ricetta, poi i nostri ascoltatori ci suggeriranno la loro e naturalmente voi in cambio li aiuterete a superare eventuali difficoltà. Dottore. Ma la riassumerei in una parola che è proprio corrispondente alla mia attività professionale attuale, della quale sono sempre più innamorato ed affascinato al tempo stesso. La parola è allenamento, e quindi prepararsi intensamente, duramente, faticosamente e al tempo stesso avere netta la consapevolezza del limite, cioè del fatto che possiamo sbagliare, possiamo essere sconfitti, possiamo non superare la prova e tuttavia utilizzare anche in questo caso gli insegnamenti che la sconfitta ci potrà offrire. Questo ci mette in una condizione, non può succedere niente di disastroso, posso sbagliare, posso fallire. Ecco, quello, dottor Ballabio, che credo sia importante sottolineare è che tante volte quando ci troviamo di fronte ad una prova, ad un esame, temiamo un insuccesso, una sconfitta, ci mettiamo tutti in discussione. Invece aver ben chiaro che non siamo noi a essere messi in discussione, ma la nostra resa in quel momento, quel nostro comportamento in quell'occasione può farci forse così capire e contestualizzare il problema. Che dice? Esattamente, tra l'altro ci mette nelle condizioni migliori il contemplare la possibilità dell'errore o del fallimento, ovviamente cercando di ridimensionarlo il più possibile, di renderlo il più possibile innocuo. Sto pensando al contesto musicale, io posso sbagliare una nota, posso sbagliare un passaggio, ma posso fare in modo che questo errore non influisca negativamente sul risultato complessivo. Questo ci mette nella condizione di contemplare la possibilità dell'errore, ci mette nella condizione di non sbagliare, o comunque di sbagliare il meno possibile e di commettere gli errori più veniali e più innocui rispetto a quelli più clamorosi e più disastrosi. C'è anche da dire che non tutti gli esami sono uguali, alcuni ci sembrano più facili, forse perché sono sulla nostra lunghezza d'onda, alla nostra portata, altri ci sembrano insormontabili. Anche a scuola, no? Proprio adesso che pensiamo alla maturità è così, ci sono materie che ci sembrano facili e altre che sono assai dure. Allo stesso modo nella vita, Alberto, ci sono persone che giocano facile in alcuni ambiti e risultano sempre impreparate, sfornite, no? Degli elementi necessari, di quella preparazione per altri. Molte persone affermatissime nel lavoro sono poi veramente una tragedia nelle relazioni sentimentali, amicali, amorose. È quasi, no, a dire che non si può vincere in tutto, Alberto. Sì, e credo che poi sia l'esperienza di tutti noi nella quotidianità, spesso non si può davvero avere tutto. Io credo che alla fine diventare però una persona riuscita, realizzata, soddisfatta di sé, significa avere proprio una chiara percezione dei propri punti di forza, dei propri punti di debolezza. I propri punti di forza corrispondono a quelle aree in cui poi noi veramente siamo molto molto eccellenti. I punti di debolezza dovremmo accettarli come limiti da condividere con le persone che ci possono aiutare, e in questo senso io trovo che essere molto bravi sul lavoro e magari molto fallimentari nella vita spesso è poi una situazione molto concreta, perché tendiamo a buttarci nelle cose che ci riescono molto bene, con quelle cerchiamo di coprire il disagio che ci deriva dalle cose che invece non funzionano. A volte è proprio importante dire effettivamente forse lì dove non funziono dovrei metterci non più sono testa. Tanto bravo e ho bisogno di disinvestire un po' là in quella zona in cui ottengo un ruolo che mi dà molto piacere e provare a investire di più in quell'area della vita che mi sta riuscendo così difficile. In linea con noi abbiamo il professor Alberto Oliverio, psicobiologo dell'Università di Roma La Sapienza. Buongiorno professore, bentornato. Buongiorno a voi, grazie. Io l'ho chiamata perché vorrei che lei ci aiutasse a capire che cosa succede dentro il nostro cervello, che cosa si attiva, che cosa si muove, che cosa cala, che cosa aumenta quando noi siamo di fronte ad un impegno importante. Naturalmente noi l'abbiamo già accennato, ci sono persone che vivono questi momenti con grande stress, altre con uno stress più ridotto, ma mi piace parlare di stress buono, quello che ci fa mettere in gioco tutte le nostre competenze, e di stress invece negativo, quello che ci paralizza. Professore. Beh, indubbiamente sì, qualsiasi sfida, qualsiasi impegno implica un qualche livello di stress, appunto come lei diceva, buono oppure ai limiti della patologia, nel senso che quando lo stress è molto forte, ci sovrasta, in pratica tutto l'organismo ne risente, perché il cervello entra in tilt un po', stimola la produzione di ormoni che in qualche modo circolano per tutto il corpo, in particolare di ormoni dei surreni, di cui si può dosare molto facilmente il cortisolo oggi. Nella saliva persino di una persona bastano due goccioline per vedere se è stressata oppure meno. E poi anche altri aspetti del cervello, diciamo, può essere un calo dell'attenzione selettiva nel caso di iperstress. Invece tutt'altra cosa è quando noi prestiamo attenzione selettivamente, siamo come dicono i ragazzi in palla, insomma, sì, nel senso che pronti a è proprio così degli stimoli, no? Ecco, in quel caso siamo in grado di focalizzare la nostra attenzione quello che potremmo definire il canale preferito, cioè risolvere, mettiamo, un problema, scrivere un tema, quello che, tagliando fuori altre afferenze, pensieri, percezioni che possono essere di disturbo. Quindi questa è una grande capacità del nostro cervello, farci concentrare su un obiettivo tagliando i ponti con le cose che sono irrilevanti. Professore, ma se lei, prima di salutarci, dovesse rivolgersi alle persone che, come lei ha detto, come dicono i ragazzi, vanno in palla, ecco, un consiglio da uno che il cervello lo conosce bene e sa come si comporta, come farlo rendere, come coccolarlo, stimolarlo, placarlo. Beh, per coccolare proprio il cervello, diciamo, non andare in palla, io direi scaricare le tensioni. Ci sono semplici tecniche, per esempio imparare a respirare lentamente e profondamente, ecco, in questo modo diminuiamo la tensione che pervade il nostro corpo, i nostri muscoli e così via. Una tecnica di rilassamento anche muscolare di tipo Zen può essere molto utile. Un altro aspetto, il giorno prima degli esami, ecco, una corsetta nel parco ha un effetto positivo e rilassante, produce endorfine e ci rende meno tesi, meno tirati. Professore, io la ringrazio per essere stato con noi, le auguro buona giornata. Grazie anche a voi e a tutti. E vado a Nello che ci chiama da Roma e poi ho un aiuto rapido da dare a Cinzia che ci ha inviato un SOS. Nello, buongiorno. Buongiorno a te, ciao. Ci racconti. Allora, io racconto che sentivo per radio dello stress che ogni persona vive nel momento in cui deve fare degli esami di maturità oppure altri esami di ogni genere. Io in questo periodo mi trovo a dover sostenere quasi ogni giorno o saltuariamente degli esami per colloqui di lavoro. Sì. Sono laureato e sono in cerca di lavoro e ti posso dire che nel corso di questi mesi, da quando sono in cerca appunto di lavoro, trovo spesso dei momenti in cui sono demotivato perché mi trovo a dover fare dei colloqui prima con le risorse umane di alcune aziende, sì, a superarle e poi farle anche con i manager di linea, quindi colloqui piuttosto impegnativi, e poi alla fine mi ritrovo ad avere dei feedback da parte delle aziende negative. Sebbene posso essere tra virgolette in fase di selezione illuso di poter andare bene per quella posizione, quindi mi trovo poi di nuovo a dover ricercare una nuova posizione per altre aziende e quindi a dovermi ripreparare per altri colloqui. Sì, è una corsa d'ostacoli continua, Nello. E capisco assolutamente, e penso anche ai nostri amici da casa, questa tensione e poi questa sensazione di essere privo di forza e di non farcela, Alberto. Ma io credo due aspetti importanti per Nello. Primo, in alcune selezioni si può essere davvero molto molto bravi, ma non vengono condivisi con noi i criteri intorno ai quali loro faranno la selezione. Ho proprio il ricordo di me, neolaureato, che ho preso un aereo, sono andato a Roma, ho fatto un colloquio, secondo me, perfetto, sono tornato a casa e dopo tre settimane mi hanno detto lei non è selezionato, e questo fa molto male all'esaminato perché tu non comprenderai mai che cosa sei andato a fare, e questo è un aspetto. Il secondo è che, e credo sia valso anche per me, la competizione è incredibile, quindi si può aver davvero raggiunto il massimo in tutte le prove alle quali ci hanno sottoposto, ma poi alla fine ne devono prendere solo uno e quindi lì entrano in gioco altri criteri che non dipendono dalla nostra prestazione. Quindi direi essere convinti che abbiamo fatto un'ottima prova ci deve motivare in modo molto forte. Secondo aspetto, eventualmente di fronte a un esame chiedere realmente quali sono i criteri in base ai quali verrà poi selezionata la persona ideale per quella posizione. Si può chiedere, dici che... Ma secondo me è una negoziazione che io, se fossi un esaminatore, avere di fronte a me una persona molto concreta, molto operativa, molto preparata, che mi domanda quali sono i criteri della valutazione, darei subito un punto in più. 824 0024 è il numero verde per intervenire. Abbiamo anche Beatrice dalla provincia di Viterbo. Intanto, dottor Ballabio, le lancio l'SOS di Cinzia, a cui risponderemo dopo i mercati e il meteo. Sono prima in classifica per un lavoro in ente pubblico. Tutto ora dipende da me, se supererò una prova al computer. Questo mi mette ansia e preoccupazione. Sono 30 anni che non ho esami. Cosa mi consigliate? Gli esami non finiscono mai, cari amici, lo sappiamo, e cerchiamo oggi di imparare ad affrontarli nel modo giusto per dare il meglio. Dottor Ballabio, le ho lasciato un incarico, rispondere a Cinzia che si sta giocando il suo posto da prima in classifica per un lavoro in ente pubblico con una prova al computer. Naturalmente questo la mette in ansia e in preoccupazione. Che cosa può suggerire a Cinzia? Un consiglio last minute? Ma direi che nella domanda è contenuta la risposta. Tutto dipende da me, e quindi convinzione e concentrazione combinate in una felice legame. D'altra parte, come dicevamo anche in precedenza, io cerco di dare il meglio. Se non ci riuscirò, ci riproverò. Non succede niente di catastrofico. Se vado a questa prova utilizzando tutti i suggerimenti che sono emersi, penso a quelli del professor Oliverio, respiro profondo, distensione fisica anche attraverso un'attività mirata, allenamento a vincere, vincerò, e se dovesse andare male ci riproverò. Cinzia, comunque io porto buono e quindi vedrà che andrà bene. Beatrice dalla provincia di Viterbo, buongiorno. Allora, avevo chiamato perché proprio in questi giorni mi sto battendo così a livello colloquiale per quanto riguarda gli esami. Sì. Mi sono resa conto, io ho una figlia di 16 anni che per le variazioni che hanno fatto nelle norme scolastiche ha fatto un solo esame nella sua vita, quello di terza media. Sì. Essendo stati aboliti anche quelli di quinta elementare. Come tutti i ragazzi di oggi. E mi sono resa conto che nonostante ormai nelle scuole si usi quasi abitualmente l'interrogazione a prenotazione, diciamo, anche se poi non è una prenotazione, ma comunque programmate, è informato dei fatti, e mi sono resa conto che c'è un'agitazione, un'emotività che influisce sulla, e che sicuramente la mancanza degli esami ha fomentato, ha aggravato. Insomma, perché ci si allena anche a dare esami. Infatti anche all'università è così, dati i primi, poi uno si rilassa un po' di più. Alberto, Beatrice, danno pochi esami. Dalla terza media poi alla maturità questi ragazzi non hanno altre prove su cui cimentarsi e quindi arrivano con un po' di ansia in più. Sì, io non relegherei il valore della prova esclusivamente agli esami scolastici. Forse uno dei problemi per cui i nostri figli sono così emotivi di fronte alle prove è che li mettiamo poco alla prova durante il loro percorso di crescita. Trovo che aumentare le esperienze formative nelle quali possiamo indirizzare i nostri figli e a volte lasciarli stare proprio anche dentro alla fatica, dentro alla paura di non farcela, dentro a una... Quanti sono i genitori che dopo 3 mesi ritirano un figlio da un corso sportivo perché non ha più voglia? Ecco, è lì che secondo me si forgia il carattere che poi sa affrontare la prova, non necessariamente al tavolo di una commissione di esami scolastici. Adesso io voglio salutare un'amica, a me piace molto, è una scrittrice e sembra vinca sempre, è Benedetta Cibrario. Ciao Benedetta. Ciao Nicoletta. Donna meravigliosa, lei ha vinto il premio Campiello, subito così per iniziare, no, con il suo romanzo di esordio Rosso Vermiglio, ok. Poi cosa succede? Secondo romanzo Sotto cieli non curanti e si è vinta il premio Rapallo. Allora io dico, ma possibile, fa sempre centro questa Benedetta donna, Benedetta di nome di fatto, Benedetta, però ecco, da una che almeno a tutti sembra una che quando scrive un romanzo vince, in realtà c'è anche il retro, cioè qualche cosa succede, no? Dietro il sipario, quando le luci del palco si spengono, c'è una storia da raccontare, non funziona sempre così. No, in realtà la tensione è sempre grandissima, ma poi soprattutto è un po' che in realtà io dico sempre che i premi bisogna meritarseli dopo che uno li ha vinti, no, evidentemente, e quindi in realtà non posso non dire che non sono molto felice, certo. ma in realtà ne sento doppiamente il peso, no, in qualche modo, e quindi per restare nel tema così di cui parlate, in realtà l'esame inizia adesso, ecco. Ecco, tu ci dai un altro, ci metti a dura prova, perché uno di solito dice, beh, ho vinto, è andata bene così, e invece, dottor Ballabio, questo è un aspetto che dobbiamo anche considerare, dovrà considerare anche la nostra Cinzia, no? Di cui ci siamo occupati alle prove con questo esame. Il bello viene dopo, dottor Ballabio. Assolutamente, il momento del successo, ma questo vale per le persone, per ciascuno di noi, così come vale a maggior ragione per le aziende, piccole, grandi, grandissime, il momento del maggiore successo è il momento più delicato e può essere anche il momento più pericoloso, perché la tentazione di sedersi e di godersi in modo unilaterale la soddisfazione per il successo conseguito può creare le premesse per gli insuccessi futuri, e credo che la storia sia costellata di esempi di questa natura. Per quanto riguarda le nostre vite personali e professionali individuali, vale la stessa cosa, ma invece di essere vissuta con ansia o con paura per il futuro, può essere vissuta questa situazione con divertimento e anche con gioia. Soprattutto può essere vissuta continuando a interrogarsi su cosa possiamo fare per, invece che cosa possiamo fare contro qualcuno, cosa possiamo fare per rinnovare e magari estendere il nostro successo e trasferirlo ad altri aspetti della nostra vita. Si diceva prima, concentrare ed investire esclusivamente in una direzione, il lavoro rispetto agli affetti, può essere molto pericoloso. Quindi diversificare. Ma io, Benedetta, ti devo chiedere un consiglio, perché Barbara da Varese ci scrive: ho scritto un romanzo che molti hanno letto trovando bellissimo, invece non c'è un editore che si è dimostrato interessato, ho perso la passione di scrivere, mi sembra tutta fatica buttata al vento. Questo l'ho conservato per te. Che cosa possiamo suggerire alla nostra Barbara? Di non mollare mai, perché io ho, in realtà conosco esattamente il genere di sensazioni che prova Barbara, e l'ho provato infinite volte, perché prima di essere pubblicata e prima di avere successo ho fatto proprio tutta la trafila, diciamo così, del scrivere, del sentire qualcuno che ti è vicino, che ti dice che quello che hai scritto è buono, invece dei professionisti che ti dicono che non va bene, ma che non ti dicono che non è buono, semplicemente che magari non va bene, perché magari in quel momento poi non può funzionare o non gli interessa pubblicarlo, ma questo non necessariamente vuol dire che il libro non gli piace. Continuare, non mollare mai. Io sono una che crede che se uno ha un sogno, non soltanto ha il diritto di, come dire, di perseguirlo, ma ha il dovere di non mollare. Benedetta, ti abbraccio, grazie per essere stata con noi, buona giornata. Grazie. Vorrei fare un saltino, se tanto Carmelo non vede, perché noi abbiamo la viabilità, ma voglio sentire Marco dalla provincia di Varese e poi andiamo alla viabilità. Marco, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Marco, ci racconti? Noi stiamo allora, bene. Volevo raccontarvi di un'esperienza un po' strana, perché io all'età di 48 anni ho deciso di iscrivermi all'università e quindi di sottopormi volontariamente a una serie di esami. Sì. Adesso che sono verso la fine, quindi sto proprio recandomi in questo momento per un esame all'università. Che esame va a dare, Marco? Diritto internazionale, corso avanzato. Mamma mia, tosto, eh? Anche perché io sono di mestiere, io faccio il tecnico, sono un chimico, sono il direttore tecnico di un'azienda che produce lubrificanti. Sì. E ho deciso di iscrivermi a scienze politiche, quindi è una cosa che ha ben poco a che vedere con il mio, quindi, con il mio lavoro e con il mio retroterra culturale. Senta, no? Marco, lei ha Marco, una sfida bellissima, ha fatto bene, perché noi portiamo buono e l'esame andrà bene, 30 lode immagino, ma come si sente? Ma io direi che mi sento tranquillo, cioè al di là dei primi esami, infatti sentivo anche la trasmissione, molti vostri ascoltatori che dicevano di essere molto agitati per l'esame, e io devo dire che è una sensazione che ho provato forse solo con il primo esame che ho fatto, perché ricominciavo a fare appunto l'esame dopo almeno 20 anni che non ne facevo più, ma è stata una sensazione, ed è ogni giorno di più una sensazione bella, anche perché devo dire che fortunatamente si concludono sempre in maniera molto positiva e quindi rafforzano il carattere, rafforzano anche la fiducia in se stessi molto spesso per gli esami. Marco, in bocca al lupo, al lupo, non alla lupa. Grazie, crepi. Crepi, e noi siamo con lei, buona giornata. Dalle pagine di un libro abbiamo sentito Benedetta Cibrario, alla parete rocciosa da scalare, anche questa è una prova. In linea con noi abbiamo Marco Confortola, ciao Marco! Buongiorno, come andiamo? Ma come vai tu? Ad esempio, dimmi dove sei, perché io quando ti parlo mi viene sempre un po' di palpitazione. Dove sei in questo momento, Marco? Adesso sono al rifugio Casati a 3300 metri, sono appena sceso da una montagna, dal Cevedale. Mamma mia. Per cui sono messo comodo adesso, però un momento fa non ero proprio così comodo, ero su una cresta. Oddio mio. Senti, noi ci eravamo sentiti qualche mese fa e proprio in quell'occasione ti avevi raccontato che volevi tornare a scalare gli 8000. Tu ti sei allenato, preparato e qualche mese fa hai tentato l'impresa di raggiungere la cima dell'Ozze, la quarta montagna della Terra. Ho letto che sono 8516 metri, dico bene? Esatto, proprio. Ecco, però non è andato come previsto. No, è andato che a 7900 metri i miei piedini, reduci dall'amputazione del K2, mi hanno detto che avevano tanto freddo e ho dovuto rinunciare. Per cui al campo 4, l'ultimo campo, ho rinunciato alla salita, perché logicamente in quel caso lì era molto molto più importante sicuramente la mia salute che un 8000. Certo. Senti, quindi sarà stata una decisione molto difficile quella, perché immagino che no? Tu ti eri allenato, preparato. Come l'hai vissuta, Marco? Perché ma sono contento così, perché comunque non ho sbagliato niente né sugli allenamenti né tantomeno sui tempi di salita eccetera, per cui va bene così, perché il mio corpo ha bisogno ancora di tempo, deve ancora adattarsi un po' a questa amputazione, per cui il microcircolo deve ancora un po' sistemarsi e bisogna avere pazienza. Sono contento così, di sicuro sono contento anche perché per una cosa, che la mia lucidità anche questa volta mi ha dato ragione, nel senso che a 8000 metri sono stato lucido, anche se la voglia di andare in cima a raggiungere un altro 8000 pensando ai sacrifici sia di allenamento che per cercare i soldini per ripartire sono stati tantissimi. Però giustamente si pensa sempre avanti, bisogna sempre guardare avanti, di conseguenza era importante tornare a casa con tutto attaccato ancora, di non farsi più rimare. Ecco, quindi la consapevolezza dei propri limiti è veramente dei grandi. Marco, anche noi siamo contenti che tu abbia preso questa decisione, siamo contenti, abbiamo letto che tu ci ritenti. Sì, l'anno prossimo si riparte, difatti sto già mettendo un po' in cantiere una nuova spedizione, un altro 8000. Per cui va bene, sono contento anche di una cosa, perché ho un bellissimo legame con Pasang, questo mio sherpa, che è una persona stupenda, e difatti l'anno prossimo saremo ancora assieme. È una persona veramente di cuore, una persona come noi di montagna, una persona per bene, bravo. Senti, che cosa ti ha insegnato lui? C'è una frase che lui ti dice che ti aiuta ad andare avanti, che così la regaliamo anche agli amici di Radio 24? Ma non è che... ma... Che cos'è in lui che ti dà la forza, che ti aiuta, così ne approfittiamo? Lui era con me come un compagno, come Ragnaro le spedizioni scorse. Adesso per me è più che altro un compagno più che uno sherpa. Sì. Per cui si è creato un legame bellissimo di amicizia. Perché anche il compagno con cui si affrontano le prove è una figura assolutamente importante. Può essere il compagno, cioè Marco ha dei compagni particolari, noi abbiamo magari i colleghi, i nostri compagni di vita. Insomma, Marco, ci sentiamo presto, buon allenamento, buon tutto, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi e un saluto dai 3300 metri della mia Valfurva. Grazie Marco. Dai 3300 metri scendiamo invece in ufficio, colloqui di lavoro, capi che sono cattivi. Chi è quella? Nessuno. Ecco, dalle risorse umane l'hanno mandata su per il nuovo posto da assistente. Io la stavo più o meno intervistando per te, ma è un caso disperato, assolutamente inadatto. È chiaro che dovrò pensarci da sola, visto che le ultime due che mi hai mandato erano totalmente inadeguate. Perciò falla entrare. È tutto. Certo. Vuole vederti? Muoviti. Chi sei? Mi chiamo Andy Sachs. Mi sono laureata da poco alla Northwestern University. E che cosa ci fai qui? Penso di avere le capacità per lavorare come suo assistente. E sì, sono venuta a New York per fare la giornalista. Gli ho mandato lettere da tutte le parti. Finalmente sono stata chiamata dalla Elias Clark. Ho incontrato Sherry alle risorse umane e praticamente ho qui ho Auto Universe. Quindi tu non leggi Runway? No. E prima di oggi non avevi mai sentito parlare di me? No. E non hai la minima idea dello stile, del senso della moda? Beh, penso che dipenda da quello che uno... No, non era una domanda. Sono stata direttrice del Daily Northwestern. Ho anche vinto un concorso nazionale per giornalisti universitari con la mia indagine sul sindacato dei portieri che denunciavano sfruttamento. Grazie del tempo che mi ha dedicato. La terribile Miranda, ma chissà se tra gli strafulminati dell'azienda di Zot c'è qualcuno che le assomiglia. Saluta Andrea Beretta, alias Marco sul pezzo, protagonista di Zot. Ciao Andrea. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti gli ascoltatori. La prima fiction radiofonica italiana di satira aziendale in onda su Radio 24 dal lunedì alle venerdì alle 16:50. Sono stata brava Andrea. Sei stata bravissima, hai dato tutte le informazioni corrette. Anche Marco sul pezzo, che è la Miranda di Zot, potrebbe darti uno stroke, cioè una piccola gratificazione. Via. Senti Marco, ma voi che raccontate vizi, vezzi, virtù della vita in azienda, guardiamo un po' le prove sul lavoro. Sicuramente ci sono, forse però potremmo affrontarle in un modo un po' diverso? Guarda, ti dico la mia, Nicoletta, proprio noi ovviamente facciamo Zot e poi siamo consulenti di mestiere. Nelle aziende tutti i giorni ci sono sfide, però c'è un po' la moda che si è diffusa in questi anni di far sembrare ogni occasione una sfida quasi impossibile. C'è dietro anche una teoria, dei modelli che sostengono che creare questa tensione verso la sfida e l'obiettivo carichi le persone. Ecco, il mio parere è che l'abuso, a furia di caricare, poi ci sono tutte queste occasioni che un po' si svuotano di significato e poi non creano le condizioni migliori perché una persona possa dare il meglio di sé, insomma, che è fare il suo mestiere e gestire le sfide che ha con l'ambizione e la preparazione che servono, ma senza essere, come dire, avere quell'eccesso di stress che poi non crea le condizioni per far bene, insomma. No, anche perché alcune persone paralizza. Senti, però c'è anche il bello, no? Di questo. Assolutamente. Se un... Dimmi, Nicoletta. No, dicevo, c'è anche il bello, perché misurarsi ogni giorno, se uno lo fa senza caricarsi troppo, può essere un'occasione di crescita, diciamo così. Assolutamente, io credo profondamente che, come dire, nella vita si possa essere soddisfatti, professionale non se ci si danno degli obiettivi, no? E si vuole crescere, si vogliono affrontare le sfide che ci sono, con una grande consapevolezza dei propri mezzi e con una grande consapevolezza che non è mai finita, per cui prepararsi, mi viene da dire. Senti, noi ci prepariamo a sentirvi oggi alle 16:50 su Radio 24, ma udite anche a guardare nelle edicole con grande attenzione, perché Zot, che è un programma radiofonico, è nato da un libro. E il libro da oggi, anzi da ieri, è in edicola insieme a 15 puntate che sono il meglio delle puntate radiofoniche, e sarà per un mese in edicola. È uscito ieri con il quotidiano e sulle 24 ore, siamo molto felici di questo, è stata una sfida, se vuoi, e portata a casa con successo, poi vediamo quanta gente ha voglia. Ma tantissimo, sarà un ulteriore grandissimo successo. Un bacio ad Andrea Beretta, ciao Andrea. Un abbraccio, buona giornata a tutti, a risentirci. Grazie, presto. Io ho sforato un po', un saluto anche al dottor Luciano Ballabio, ad Alberto Pellai. Sul sito due appuntamenti importanti di prevenzione, uno a Milano e uno a Roma, uno sulla pelle e l'altro sugli occhi, andate a vedere sul nostro sito, sulla pagina di Essere Benessere. Io come sempre vi aspetto domani, buona giornata.